con Daniele Francesconi, direttore della 19ª edizione del Festival Filosofia. Quest'anno il titolo è Persona, maneggiare con cura. A Modena, Carpi, Sassuolo, dal 13 al 15 settembre 2019. Daniele, ben trovato. Grazie, buonasera. Raccontiamo un po' dalle origini, cos'è, qual è la caratteristica di questo festival? È quello di essere un'occasione di aggiornamento su temi rilevanti che provengano dalla tradizione della filosofia, ma che facciano riferimento anche a questioni urgenti nella nostra epoca, per un pubblico molto eterogeneo. È il caso anche quest'anno con la parola che abbiamo scelto, persona, che indica una grande, diciamo, emergenza concettuale del nostro tempo. In che accezione questo persona maneggiare con cura? Il tema della persona è diventato cruciale per la filosofia, ma anche per la vita collettiva. Sempre di più noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di riconoscimento, che vengano riconosciute le nostre differenze e anche i nostri diritti. Sempre di più l'epoca ci dice che la nostra condizione è quella di una vulnerabilità, però in questa vulnerabilità c'è anche scritto il rimedio, che è quello che veniamo maneggiati con cura, che implica una relazione, un rapporto, una reciprocità. Come si caratterizzeranno queste 3 giornate? Intorno a un nucleo di 54 lezioni magistrali e poi un grande programma artistico di mostre, di laboratori, rassegne cinematografiche, attività per ragazzi, sono 150 appuntamenti. Le lezioni cercano di scandire il tema secondo una serie di piste tematiche che vanno dalla questione della persona intesa come maschera, come ci comportiamo come personaggi sul palcoscenico della società, fino appunto ai temi più giuridici e politici che investono i diritti umani, che investono la questione del riconoscimento e dell'accoglienza. Come si articolerà ogni singola giornata dalla mattina alla sera? Il nostro programma e le nostre giornate sono scandite dalle lezioni, al mattino, al pomeriggio e alla sera. Quando poi alle attività più strettamente appunto filosofiche delle lezioni subentra un programma di spettacoli. La caratteristica è che tutto è sintonizzato rispetto all'argomento, cioè anche il programma artistico declina il tema della persona nei suoi vari aspetti, per esempio molto facciamo sul ritratto, perché il volto è uno dei luoghi in cui si esprime l'unicità di ciascuno di noi. Per quanto riguarda gli incontri, a quali personalità avete fatto riferimento? Chi avete chiamato a raccolta? Quest'anno abbiamo, come anche l'anno passato, provato a rinnovare in modo molto forte il parco dei nostri relatori, quasi la metà sono nuovi, tra gli stranieri i 2/3 sono nuovi. A me piace segnalare appunto alcune di queste voci che per la prima volta si presentano al festival, in particolare Alain Ehrenberg, che ci parlerà di come le neuroscienze hanno cambiato il concetto di personalità. Michel Augier, che racconterà come tutti siamo stranieri in questo mondo. La condizione di essere straniero non dipende più dal luogo, ma dalla relazione che abbiamo con gli altri. E Michael Rosen, che viene da Harvard, è uno dei principali filosofi politici, ragionerà sul tema della dignità. La dignità è una delle virtù fondamentali della persona, è un diritto e ha delle implicazioni molto significative e complesse. Tra scienza e tecnologia, qual è il ruolo oggi della filosofia nella società? Quello di un tempo, cioè porre domande, possibilmente domande controcorrente, passare contropelo la realtà, cercare di non essere autoreferenziale, ossia non solo guardare la propria storia, ma anche guardare il mondo. Il buon filosofo è quello che, oltre alle opere della filosofia, conosce anche la realtà che sta fuori di noi, perché alla fine vale sempre l'adagio che la filosofia è il proprio tempo appreso in pensieri. Considerato che siamo a un'esperienza ventennale, come recepisce la persona comune questo approccio con la filosofia? Ma noi abbiamo un pubblico molto fidelizzato e che in larga parte è fatta di persone che non hanno una formazione specifica in filosofia, anzi che per oltre la metà non hanno una formazione universitaria. Questo credo che sia proprio un poco la nostra missione, cioè fornire un aggiornamento culturale su temi importanti che riguardano la vita di ognuno di noi ai destinatari più ampi possibili. Quindi la composizione del nostro pubblico ci guida anche nell'impostazione del programma. Per avere tutti i dettagli ci sono dei riferimenti internet? Assolutamente, si può seguire il nostro programma e le informazioni sul sito festivalfilosofia.it e poi su tutti i nostri social, Festival Filosofia, Facebook, Twitter e Instagram. Ci sarà a disposizione anche un archivio con tutto il materiale raccolto in questi anni? Lo stiamo preparando, lo inaugureremo dopo questa edizione, entro la fine di quest'anno, metteremo a disposizione 10 anni di festival, un archivio sia video che audio di MP3 degli ultimi 10 anni di lezioni al festival, quindi saranno oltre 500 lezioni disponibili per il pubblico. 19ª edizione del Festival Filosofia, dal titolo Persona, maneggiare con cura, Modena, Carpi, Sassuolo, dal 13 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Daniele Francesconi. Un abbraccio, un saluto e in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo e a presto.